Noi siamo una formazione politica, abbiamo dimostrato di essere ben radicati nel territorio e che nel fare una opposizione chiara nel linguaggio e determinata nell'azione siamo riusciti a convincere molti italiani, tant'è che abbiamo migliorato il nostro risultato, che questo governo Berlusconi fa credere che governa per gli altri, ma sta governando solo per sé, mentre per gli altri non ci pensa per niente.